cioè capire come si può riorganizzare minimamente la tempistica della nostra giornata, e da lì tutto il resto viene di conseguenza. Piccoli aggiustamenti di tiro, sì, aggiustamenti, perché sono questi che funzionano. Se ci... la svolta radicale non paga. Non paga, perché quasi sempre siamo costretti ad abbandonarle, diventa un elemento di frustrazione ulteriore. Anzi, poi ci raccontiamo, ma io ho provato e non proviamo più. Bravo, è così. Lorenzo ci chiama invece da Brescia. Buongiorno Lorenzo. Sì, buongiorno, finalmente riesco a parlare. Oh, Lorenzo, finalmente qua... mi dica. Io sono alto 1,75, peso circa 87-88 kg e faccio l'autista. E niente, io volevo chiedere appunto al suo dottore lì, che è molto preparato. Io ho un po' di pancia adesso, non esageriamo, non le classiche pancione che... Una pancetta. Però ho la mia bella pancettina. Ecco. Sto adesso, ho preso una bicicletta e sto facendo praticamente, vado a lavorare sul lavoro, che sono circa 5 km. Faccio di media circa 40 km alla settimana. Ecco, io volevo chiedergli al dottore se andava bene per calare la pancia, insomma per tenermi anche in forma un po'. E poi un'altra cosa, se andava bene appunto anche la bicicletta, insomma, 43 anni per il movimento, così per le certo. ossa. Mm. E cosa si potevo, come dieta, così cosa potevo usare per tenermi un po'. Senta, Lorenzo, ma lei fa tutte cose giuste. Avrà anche un vizietto, no? Un piccolo vizio, un po' pigro, ad esempio, goloso. Ma neanche fumo, quello sì. Fumo. Vabbè, allora meno male, perché fumo. Tra poco ci sarà il dottor Boffi, anzi vedo che è già in linea con noi. Dottor Boffi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno al collega. Sì, buongiorno. Sì, il dottor Boffi ormai noi lo conosciamo bene, il dottor Confalonieri anche, perché ha sentito tutte le nostre avventure, è pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, e quindi in fondo potrebbe dare anche lui qualche suggerimento a Lorenzo. Ma dottor Confalonieri, tralasciando il fumo, che delego volentieri al collega, direi che la scelta di inserire la bicicletta per recarsi sul posto di lavoro è perfetta. Mm. Nasce proprio dall'individuazione di quegli spazi all'interno della nostra giornata che ci consentono di fare sport senza stravolgerla. Quindi benissimo, molto bene anche come tipo di sport per un soggetto in sovrappeso, l'abbiamo già detto. Dal punto di vista alimentare, non potendo strutturare una dieta qua su due piedi, quello che consiglierei al nostro amico, visto che è un camionista, mi sembra, viaggia, è provi a fare una dieta parzialmente dissociata, quindi mangi quasi esclusivamente carboidrati durante la giornata, quindi pasto, riso e verdure preferibilmente cotte, e la sera elimini i carboidrati, magari elimini anche il pane, e si dedichi invece alle pietanze a base di carne, di pesce soprattutto, ed eventualmente accompagnate da qualche zuppa di legumi o da un pinzimonio o da un'insalata cruda. Questo primo accorgimento, abbinato alla pratica sportiva, vedrà che già migliorerà significativamente la sua situazione. Dottor Boffi, aspetti lì che saluto anche Domenico da Bari. Domenico, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma senta Domenico, qualche vizio ce l'avrà. Sì, lo no, confessi. Insomma, io più che altro sto cercando di abbandonarlo, un vizio, il vizio del fumo, insomma. Magnifico. Cosa? Magnifico, dico. Sperando insomma di farcela, insomma, perché è abbastanza dura. Perché è fumatore, insomma, è nascosto, penso che lo so. Mi appoggerà, insomma. Senta Domenico, e lei fa anche un po' di sport? Cosa? Fa anche un po' di sport? Sì, sì, sì, sto cercando insomma di accompagnare questo abbandono del fumo, insomma, con un'attività sportiva, che sia la corsetta oppure la cicletta comodamente a casa, insomma. Dottor Boffi, secondo lei può essere l'attività sportiva, può far scattare quel meccanismo per smettere di fumare in qualche modo? Già quando noi facciamo sport e fumiamo ci rendiamo conto che abbiamo un po' il fiato corto, se smettiamo miglioriamo, e questo forse può aiutarci a tenere duro. Ma dottore, le lascio la palla. Grazie. Ma certo, fumo e sport sono due cose legate da molti fili. Innanzitutto direi che se il fumo lo sappiamo tutti che fa sempre male, forse per una persona sportiva c'è addirittura qualche rischio in più, perché intanto sappiamo tutti che il fumo dà danni sia nell'immediato che nel lungo periodo, sì, per patologie croniche, cardiovascolari, polmonari, tumori. Però va sottolineato che nell'immediato, a causa di un gas velenoso liberato dalla sigaretta che brucia, che si chiama monossido di carbonio, viene tolto al fumatore ossigeno al sangue, quindi ai muscoli, ai tessuti, riduce la performance sportiva, la resistenza, e quindi lo standard delle sue prestazioni sportive. E quindi è molto importante anche a livello motivazionale che il fumatore poi utilizzi queste attività sportive che fa, tipo andare in bicicletta, correre, fare tennis o nuoto, anche per percepire poi il miglioramento immediato nel giro già di pochi giorni che smettere di fumare porta. Perché lo sportivo sente più rapidamente, vero, i benefici della cessazione dal fumo? Certo, perché è già abituato a conoscere, a studiare anche il suo respiro, però c'è un errore che vorrei ricordarvi. Cioè, avevo letto di un sondaggio sui fumatori sportivi, un sondaggio che mi aveva colpito negativamente, perché diceva che il 40% dei fumatori era convinto, aveva la convinzione che l'allenamento potesse compensare i danni del fumo, quindi pur fumando il fumo faceva meno male se faceva sport. Esattamente il contrario, perché è vero che lo sport è un esercizio, un'abitudine virtuosa, però più il polmone è sano e più anche ricettivo alle polveri sottili che uno esala, che uno inspira fumando, per cui uno sportivo ha più capacità polmonare, una migliore attività di diaframma e quindi inspira anche più fumo. Io spero che le argomentazioni del dottor Boffi abbiano convinto il nostro amico da casa, da Bari, che già si sta muovendo un po' con la cicletta, un po' con un po' di bici, a smettere definitivamente di fumare. Comunque i centri antifumo sono a disposizione, c'è il nostro forum in cui il dottor Boffi continua a essere moderatore, torneremo sicuramente a parlare di fumo. Prima dei mercati il dottor Confalonieri voleva... Una domanda brevissima, sì. Molto sintetica. Per chi non sa rinunciare alle 4-5 sigarette al giorno, un vizio irrinunciabile, in termini invece di conseguenze a livello dell'apparato cardiovascolare, dei vasi in particolare, il fatto di fare sport con regolarità può essere una scelta che riduce questo rischio cronico e questo danno cronico indotto dal fumo o no? Non è purtroppo stato assolutamente dimostrato. Ti dirò di più, collega, che è stato invece dimostrato che la curva del rischio cardiovascolare è un'iperbole, per cui la differenza che c'è tra 5 e 10 sigarette al giorno, ad esempio, in ordine dell'incidenza del rischio, sì, è molto più elevata di quella che c'è tra 30 e 40 sigarette, perché le prime sigarette tendiamo ad aspirarle di più e quindi a filtrarle di più. Quindi non c'è una soglia di rischio tollerabile per le sigarette, non solo, le prime sigarette tendi ad aspirarle di più, per cui oltretutto se iperventili, se fai attività sportiva le aspiri ancora di più e quindi ti danneggi di più e il rischio quindi cardiovascolare è maggiore. Quindi mi spiace, ahimè, purtroppo dover dire sempre queste cose ai fumatori, ma anche una sola sigaretta fa male. Dottor Boffi, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e intanto noi andiamo ai mercati, però Andrea è arrivato, dottor Confalonieri. Come potrei perdermi, Confalonieri, bieco spacciatore di sport, post-scriptum, ma non mi toglierete il mio toscano giornaliero. Così dice Andrea, che ci scrive da Torino e che è diventato canoista con un sigaro giornaliero. Siamo tornati insieme, la puntata di oggi qua in studio con me c'è il dottor Confalonieri, è concentrata sull'attività sportiva ma anche un po' sui vizi, sugli aspetti in qualche modo quotidiani che possono remare contro ai nostri risultati. Ma io vorrei aprire subito una bella finestra e saluto il nostro ospite, il professor Alessandro Nanni Costa. Buongiorno, direttore del Centro Nazionale dei Trapianti. Professore, sono molto contenta che lei sia qua con me, perché il tema che affrontiamo con lei è sempre un tema di grande interesse e si è conclusa la settimana che si sta per concludere, è stata una settimana importante, si è svolta la 12ª edizione delle giornate nazionali per la donazione e trapianto di organi e tessuti. Ci sono state tante iniziative, ricordo che tante ce ne saranno fino a domenica, ma lo slogan di questa edizione è particolarmente incisivo: un donatore moltiplica la vita. Professore. Sì. Se noi pensiamo a un donatore, possiamo pensare agli organi che vengono prelevati, sì, e al numero dei trapianti che vengono effettuati. Possono essere effettuati 4, 5, fino a 6 trapianti e vuol dire dare davvero la vita, far ricominciare una nuova vita, un secondo compleanno a molte persone, a 5, 6 persone. Vuol dire smettere con la dialisi, che consente di sopravvivere ma con grande fatica, vuol dire consentire dare una prospettiva di vita vera a un paziente gravemente malato di cuore, di fegato, di polmoni, e questo consente davvero di riprendere il livello normale delle cose di tutti i giorni, di fare figli, di fare attività sportiva. Noi stiamo seguendo, lavorando con i trapiantati anche a livello scientifico per la loro attività sportiva, con un'iniziativa che si chiama Trapianti Adesso Sport, e vorremmo attraverso l'attività sportiva fare ridurre a loro il consumo di certi farmaci. Vorremmo arrivare alla prescrizione di attività sportiva ai trapiantati, ovviamente anche per gli altri pazienti, perché è utile in tantissime malattie, ma in modo particolare in questi pazienti. Quindi un donatore moltiplica la vita, ridà la vita a tante persone. Il trapianto è salute, non è solo un'ospedalizzazione o un grande intervento chirurgico. Professore, vogliamo dare uno sguardo ai dati? Ma i dati ci dicono questo, che nei primi tre mesi di quest'anno abbiamo diminuito le opposizioni alla donazione di circa il 10% e stiamo effettuando un 10-15% di trapianti in più. Noi vogliamo continuare tutto l'anno con questi dati e quindi chiediamo agli ascoltatori davvero una scelta consapevole per la vita, dire sì alla donazione degli organi, ecco, dopo la morte. Esatto. Professore, come si fa a dire sì alla donazione degli organi? Il portafoglio dicendo voglio donare gli organi dopo la morte. Bisogna dirlo ai propri familiari, anche perché se questa espressione non c'è, non è stata scritta, non è stata fatta presso una ASL, dove poi viene inserita in un computer centrale che noi abbiamo, toccherà ai familiari decidere. Quando viene fatta la proposta di donazione, dire sì, non opporsi a questo. Professor Nanni Costa, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, rimando ai nostri ascoltatori, ci sono grazie tanti siti, e buona giornata, grazie, anche a voi. E potete anche consultare il Centro Nazionale Trapianti, il sito che trovate facilmente su internet. Adesso noi riprendiamo a parlare di attività sportiva e in linea con noi abbiamo il professor Michelangelo Giampietro, buongiorno. Buongiorno a tutti. Bentornato. Grazie, bentrovati tutti quanti. E il professor Michelangelo Giampietro è medico specialista in medicina dello sport e in scienza dell'alimentazione. Professore, abbiamo parlato del fumo, io con lei vorrei parlare dell'alcol. Alcol e sport. Bene, ma è un binomio che ha aspetti positivi e negativi. Sì. Diciamo innanzitutto che quando parliamo di alcol dobbiamo specificare che tipo di bevande alcoliche, se quelle a bassa gradazione come il vino e la birra, per le quali possiamo avere anche un atteggiamento indulgente almeno in alcuni momenti e in alcuni periodi della preparazione degli sportivi, a prescindere dal loro livello di competizione e di impegno fisico. Oppure se parliamo di superalcolici, per i quali sinceramente, salvo rarissime eccezioni in occasioni del tutto particolari, direi che assolutamente sarebbe no. Meglio evitarli. L'altro aspetto, diciamo, importante da considerare e che qualcuno potrebbe sottovalutare, a qualcuno far sorridere, è che l'alcol per alcune discipline sportive nei controlli antidoping in gara è una sostanza proibita, perché è in grado con il suo effetto rilassante di favorire la prestazione sportiva nelle specialità di destrezza, soprattutto nelle discipline sportive di tiro. Quindi abbiamo questo dualismo, da una parte il bene tra virgolette, da una parte il male anch'esso tra virgolette del rischio doping. Professore, in sostanza, un consiglio ai nostri ascoltatori che praticano sport a livello amatoriale, non vogliono naturalmente esagerare, ma non vogliono rinunciare a quel contributo, quell'apporto quotidiano di vino che abbiamo detto che è, se moderato, giusto, svolge anche delle funzioni benefiche, basta che sia preso nei limiti. Moderato, oculato e nelle forme, nei modi e nei tempi opportuni di modeste quantità di bevande alcoliche a bassa gradazione, quali il vino e la birra. Lo sportivo deve soltanto avere alcune precauzioni in più. Quali? Innanzitutto, se è in sovrappeso, e questo vale anche per la popolazione generale, è meglio evitare di assumere calorie attraverso l'alcol, dovendo restringere generalmente la razione energetica calorica sì. giornaliera. Diciamo è la prima cosa sulla quale bisognerebbe agire per ridurre un po' le calorie. L'altre considerazioni sono il fatto che come per la popolazione generale anche lo sportivo ne deve bere piccole quantità e ai pasti principali, in particolare soprattutto per quelli che fanno allenamento nel primo pomeriggio. Io eviterei di prenderlo a pranzo, lasciando diciamo al pasto serale il compito di dare gratificazione non solo per quanto riguarda tutti gli alimenti, ma anche per quanto riguarda queste bevande. Piccole quantità possiamo nel corso della cena, lontano dagli eventi competitivi, sì. Sicuramente sono tollerate, che sia vino o che sia birra, purché sia di buona qualità, certo. purché sia scelta con attenzione anche agli abbinamenti con i pasti. Dice che c'entra questo con gli sportivi. Beh, lo sportivo è un po' penalizzato, tra virgolette, a tavola dalla necessità di tenere sotto controllo un po' tante cose. Almeno concediamogli il piacere di buoni abbinamenti e di buoni piatti da gustare insieme alla giusta bevanda, se contenuta nelle quantità ovviamente di tipo alcolico. Professor Gianpietro, la ringrazio per essere stato con noi, buona giornata, grazie. Buona giornata a lei e a tutti i radioascoltatori. Prima di andare, abbiamo Luca che ci aspetta da Massa, Francesco da Crotone, ritornerei però su fumo e cuore. Oscar da Belluno ci scrive: ho sentito in una trasmissione medica l'affermazione che non praticare attività fisica corrisponde come danno cardiovascolare a fumare. Beh, è un po' una generalizzazione. Indubbiamente l'attività fisica svolge un ruolo benefico a livello cardiovascolare, si pensi soltanto alla riduzione delle problematiche per esempio di tipo ipertensivo legate anche al fumo, quindi da questo punto di vista comunque un effetto benefico, anche se non di contrasto, così come specificava il dottor Boffi, indubbiamente c'è. Diciamo però che una persona che ha abitudini molto sane, peso controllato, colesterolo e trigliceridi controllati, vasi perfettamente funzionali, tutto sommato non paragonerei la mancanza di attività sportiva, nonostante mi abbiano definito spacciatore di esercizio, al fumo. Uno ha un effetto dannoso diretto, quell'altro diciamo cioè la mancanza di un effetto preventivo, che è tanto più importante, tanto maggiori sono i fattori di rischio, ecco. Avevamo un appuntamento con Luca da Massa, eccolo, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per farmi intervenire. Ci racconti, Luca? Niente, io diciamo sono vegetariano, ho una dieta diciamo controllata, abbastanza controllata, non ho vizi di fumo, alcol o quant'altro. La mia difficoltà è riuscire a coordinare diciamo il lavoro piuttosto impegnativo, visto che sono un libero professionista, con l'attività fisica. Sì. Quindi mi ritrovo magari a fare delle cose piuttosto estreme, diciamo, tipo sì. che so, surf d'inverno, piuttosto che arrampicate in montagna senza avere una preparazione adeguata. Sì, perché uno cerca un po' di recuperare, si fa indigestione sì. Quando si può. Quando si può si dedica il tempo in maniera magari eccessiva e sì. non si riesce a riscontrare dei benefici, ecco. Esatto, anzi si rischia. Allora passiamo, Luca ha una domanda specifica o vuole un consiglio? No, sapere come riuscire magari a coordinare meglio questo gap tra l'attività fisica eccessiva e tutto o niente, insomma. Ecco, bisogna magari a guadagnare un po' di forma fisica più costante rispetto magari a un'attività sportiva eccessiva, perché è la costanza che premia. Allora, dottor Confalonieri, le passo l'agenda di Luca, perché qua bisogna sì, mettere un po' a posto l'agenda. Gli darei due consigli fondamentali. Il primo: fa delle attività che hanno a lungo andare, soprattutto se fatte saltuariamente ma in modo impegnativo, possono avere degli effetti collaterali importanti, soprattutto a livello dell'apparato muscolo-scheletrico, il surf, l'arrampicata e quant'altro. Quindi il mio consiglio sarebbe, durante la settimana, ritagliarsi 10-12 minuti per fare quella ginnastica correttiva, preventiva di riequilibrio muscolare che gli consenta di sopportare meglio sul piano muscolo-scheletrico l'attività del weekend. Secondo punto, il nostro amico è vegetariano, quindi un'altra delle problematiche che può avere è la mancanza di energia sufficiente quando fa l'attività e soprattutto il rischio di un consumo muscolare eccessivo legato a un apporto proteico inadeguato. Quindi dovrebbe modificare un po' la dieta durante queste giornate di grande attività, incrementando in modo significativo la quota di carboidrati, pasta o riso, in modo da avere energia sufficiente, concedendosi delle cene molto abbondanti, molto ricche di proteine, in modo tale che queste proteine siano poi a disposizione durante la notte, durante il riposo, per ricostruire i muscoli. Quindi legumi, nel caso di un vegetariano, fondamentalmente legumi. Francesco ci chiama da Crotone. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Una domanda, Nicoletta, se la posso fare, riferita a quello che diceva il dottor Costa sulla donazione degli organi. Sì. Perdonami se non vado subito alla mia domanda. Sì. Io da circa 20 anni nel portafoglio quel tesserino, non so se ce l'hai presente, una scelta consapevole, fu spedito, ecco, quello lì è valido. Ecco, il professor Nanni Costa ha detto che si può fare anche, si può utilizzare anche quello, ma ecco, era giusto una curiosità, Francesco, però in ogni caso basta anche, proprio come diceva Nanni Costa, il due righe che noi teniamo nel portafoglio. Tra l'altro pensa che mi scriveva una ascoltatrice americana, una Susan bostoniana a Milano, e diceva: per la donazione degli organi in America è indicato sulla patente di guida. Questo potrebbe essere ad esempio un buon suggerimento. Perché purtroppo spesso i donatori vengono proprio dagli incidenti stradali. Francesco, comunque io ti rimando sul sito del Centro Nazionale Trapianti, trovi tutte le indicazioni e anche qualche motivazione in più, ma tu vedo che sei già motivato, e ti chiederei allora di passare, perché abbiamo pochi minuti prima di chiudere, alla tua domanda. Grazie Francesco. Allora, vado velocissimo. Ho sempre giocato calcio e calcetto. Sì. Adesso ho la pancetta e mi ha fatto un danno al ginocchio serio giocando a calcetto. Sì. Il medico mi ha detto che è andata comunque bene, palestra, elettrostimolare, devo aumentare il tono muscolare e ridurre la pancetta. Sì. 5 chilometri al giorno continuo a farli regolarmente. Bravo. Di corsa. Dottore, va bene così come terapia riabilitativa unita alla dieta che sto facendo? Vado bene? Addirittura all'inizio usavo pure delle cavigliere con dei pesi, diciamo, per aumentare lo sforzo. Perdonatemi, vi ringrazio. No, grazie a lei Francesco. Telefono, eh? Grazie Francesco. Ma io direi che più che viziosi abbiamo dei virtuosi. Purtroppo sì, abbiamo trovato pochi viziosi. Pochi ci viziosi. Illudevamo, ma... sì, direi anche che se è in grado di correre per 5 km tutti i giorni, la problematica del ginocchio ormai si è risolta, perché voglio dire, se no questo ginocchio creerebbe problemi. Quindi magari con calma, eliminata la pancetta, e sicuramente i 5 km di corsa contribuiscono in modo significativo ad eliminarla, può anche riavvicinarsi a un campo di calcio, di calcetto, il nostro amico. C'è un ascoltatore che mi scrive una tenerezza. Io lavoro in un panificio, ho tentazione a cui non resisto dalle 5 alle 19, che sarebbero anche le sue e le mie, dottor Confalonieri, quindi abbiamo grande solidarietà. Nel poco tempo libero lo sport è quasi nullo, circa 25-30 minuti di passeggiata veloce tranne la domenica. Conseguenze: 35 anni, iperteso in cura, 10 kg di troppo, ma zero alcol e zero fumo. Che voto prendo? Saluti Max. 7 perché c'è zero alcol e zero fumo ed è difficile rinunciare alle tentazioni. Purtroppo è quello che si diceva prima: qualsiasi intervento deve partire dall'anamnesi sociale, dalla valutazione delle nostre abitudini di vita. Io non mi illuderei quindi che il nostro amico durante il giorno riesca a non cedere alle tentazioni. Gli consiglierei di distribuire queste tentazioni nell'arco della giornata, evitando magari un pasto importante a metà mattina, e di mangiare esclusivamente proteine invece la sera, abolendo in toto qualsiasi forma di carboidrati nella cena. Gli consiglierei anche di sfruttare la domenica per fare un'attività fisica moderata e prolungata, che sarebbe molto utile sia per l'ipertensione che per il sovrappeso. Dottor Confalonieri, in chiusura, c'è un aspetto, un errore che spesso commettiamo senza saperlo e che lei lo ritrova frequentemente tra i suoi pazienti, tra le persone che si rivolgono a lei, qualcosa che facciamo quasi senza accorgercene? Pensare che attraverso una pratica sportiva, magari iniziata anche in modo eccessivo ed imprudente, si possa compensare altri vizi e altri stress che ci sono nella nostra vita. Ricordiamoci che comunque l'introduzione all'esercizio fisico è uno stress aggiuntivo e che il nostro organismo ha una soglia massima per lo stress che non si può superare. Quindi gradualità, quindi intelligenza nell'introdurlo, quindi lavorare in parallelo sulla riduzione del vizio e sull'inserimento o l'incremento della pratica sportiva. E su questo andiamo. Io penso che non abbiamo tempo per sentire Raffaella da Cagliari, che però ci ha aspettato perché abbiamo 20 secondi. Un minuto? Mi sta di... Raffaella, ce la facciamo in un minuto? Parliamoci veloci. Okay, buongiorno. Sì. Io ho fatto per anni attività fisica, adesso sto seduta, faccio una vita molto sedentaria. Sì. Posso approfittare dal momento in cui sono stata avvantaggiata, ho fatto tanti anni di sport, e quindi rimanere un paio d'anni così in questa situazione molto sedentaria, oppure il mio fisico ne risente a 39 anni e poi fumo 2-3 sigarette, va bene? Vabbè. Grazie Raffaella. Dottor Confalonieri, flash, ma poi se no scriviamo. Raffaella può scriverci, che dice? Se ha saputo adattare la sua alimentazione all'interruzione dell'attività e quindi non è aumentata di peso, può conservare gli effetti benefici di quanto ha fatto ancora a lungo. Allora, noi adesso vi salutiamo, dobbiamo farlo, è peccato, ma noi ci risentiamo presto con il dottor Confalonieri, noi invece domani con Questa Casa Non È Un Albergo. Dottor Confalonieri, grazie. Arrivederci, grazie a tutti. E grazie a voi che ci avete ascoltato, appuntamento a domani, buona giornata da Nicoletta.